Le voci per quanto riguarda il teatro a Bologna e non solo riprendono come ogni venerdì e saranno presenti ovviamente anche per questa stagione 2023-2024. Dico questo perché con una malcelata vanità, con anche gioia, la stagione sarà con Media Partnership per ERT Emilia Romagna, teatro, visto, è arrivata anche l'emozione. No, certamente un motivo di orgoglio per la nostra emittente, per il lavoro del Breakfast Club e un ringraziamento ovviamente allo staff di ERT. Teatro Arena del Sole, il Teatro Bonci a Cesena, lo Storchi di Modena, un insieme che indubbiamente è cresciuto. I numeri parlano chiaro, sono assolutamente importanti e danno un motivo in più per quanto riguarda quella che è la stagione imminente. Per la presentazione in conferenza stampa il direttore Walter Malosti, oltre ad aver esposto questo incremento veramente molto sensibile di pubblico, ha portato anche motivo di crescita per quanto riguarda il percorso nell'arte, nella rappresentazione, nell'incontro, nel rapporto con la nostra città e quant'altro. Turn Face the Strain, ci si volta e si guarda verso l'ignoto, diventa poi qualcosa che è motivo di sviluppo e di approfondimento con nuove linee di conduzione e fili rossi per non solo le sedi teatrali ma anche un programma quanto mai forbito, un programma eterogeneo di cui parleremo magari nelle diverse sfaccettature con i protagonisti e che la nostra emittente, come vi ho detto, seguirà con attenzione. ERT, il rapporto con la città anche per quanto riguarda un aspetto di cura, ricordate, anzi ben sapete, la parte nella piazzetta posteriore di Arena del Sole secondo me è uno degli angoli da microsensazione più bello di Bologna. L'iniziativa di volerlo così sistemare o tener presente come ulterior motivo per aggregazione è indubbiamente un progetto futuro da non trascurare. E anche di questo con le istituzioni si è parlato e mi auguro veramente che si faccia. Il teatro come punto di incontro, non solamente come rappresentazione e come programmazione, è uno dei punti che più ha sottolineato il direttore artista, oltre che direttore artistico Walter Malosti, una sua idea di teatro che sia un'agorà, una porta costantemente aperta con la nostra città, è indubbiamente un motivo per guardare avanti e per coinvolgere un pubblico che addirittura da numeri pre-pandemia ancora in crescita hanno visto con ERT una passione che ha avuto una risposta, come ho già detto, di un certo tipo, rassicurante e non solo, che lascia spazio per quanto riguarda il futuro di poter sperimentare, di poter lavorare con grande qualità e allo stesso tempo con un orizzonte quanto mai aperto e con grandi spazi per iniziative di coinvolgimento pubblico. Ho tratto alcuni brani di conferenza stampa di Walter Malosti per quanto riguarda linee generali e alcuni tratti anche dedicati alle programmazioni. Sentiamo le sue parole. E questo, cioè noi dobbiamo riuscire a portare in qualche modo sia sul palco che dalla città, in qualche modo, la vita all'interno dei teatri. Non possono essere luoghi morti, paludati, no? Dicevo in questo articolo che ho fatto, ma l'avevo detto anche altre volte, insomma, lo ribadisco, io arrivo da una famiglia molto povera, no? Quando ero ragazzino io e la mia famiglia non avevamo timore di avvicinarci ai luoghi aulici, tanto più a un teatro, insomma. Invece adesso bisogna fare in modo che tutti possano accedere a questi luoghi senza disagio, senza timore, senza considerarli luoghi inaccessibili, no? Anche perché, come diceva anche Elena Di Gioia, questi luoghi non sono del direttore di un'istituzione, sono della città, sono dei cittadini. E questo non è molto chiaro spesso, cioè bisogna ribadirlo continuamente perché, insomma, questa teoria delle porte aperte, tra l'altro quest'estate qui anche quando sono finiti gli spettacoli o anche durante gli spettacoli, veniva molta gente che non vedeva gli spettacoli. A me questo piace moltissimo, cioè, è una cosa che in qualche modo fa vivere in qualche modo questo luogo come una parte della città che poi appunto appartiene a tutti. Va bene, è una mia fissazione, insomma, che spero che diventi realtà. Adesso lo stiamo facendo anche nelle altre città, ovviamente in diversi modi. Qui all'Arena c'è questo patrimonio meraviglioso, sia architettonico, no, che anche di posizione nella città, no? Che è importantissimo. Allora, alcune risposte a quello che è stato detto prima e poi attacco con la stagione. ERT è pronto, diciamo, a affrontare anche sfide tecnologiche. Noi siamo parte di questo grande rete internazionale finanziata dalla Comunità Europea che è Prospero. Quest'anno abbiamo realizzato una piattaforma digitale molto importante e stiamo per affrontare una nuova domanda, andando a fare una domanda impegnativa in cui saremo almeno 12 partner, quindi è proprio la serie A dei finanziamenti europei, con tutti, insomma, abbiamo dei partecipanti di grande rilevanza, c'è la Schaubühne di Berlino, l'Odeon di Parigi, il Teatro del Canal di Madrid, Lisbona, insomma, la Svezia, sono il gota, diciamo, del teatro europeo. Cercheremo di fare un passo in avanti coinvolgendo probabilmente in questa domanda anche alcuni importantissimi festival europei ed extraeuropei e provando a immaginare una piattaforma che sviluppa la piattaforma digitale che abbiamo creato ora, tentando di costruire un archivio del teatro internazionale. L'R&B e l'hip hop ci dà stacco musicale. Grazie al nostro conducente, come ho detto in questo caso, parliamo al conducente, anzi grazie per avermi rassicurato. Ok, ti sei ripreso, William, dal brano del buongiorno, grazie. Allora, alcuni aspetti che mi hanno portato, appunto, come ho detto prima, ad affrontare insieme ad ERT per la nostra emittente con grande interesse, entusiasmo e passione la stagione del triennio 22-23-24. da Walter Malosti per quanto riguarda l'aspetto che è stato più che limitante per il teatro, con quella nefandezza che erano gli spettacoli online e il pericolo ovviamente ha obtorto collo molte artiste, artisti, produttori e quant'altro hanno dovuto portare spettacolo con questa modalità, e il rischio era una sorta di distacco in seguito poi con la ripresa e tra virgolette la normalità. Questo pericolo non c'è stato, onore al merito, è una delle notizie più belle. Addirittura il ritorno a teatro, come ho detto, i numeri parlano chiaro, vanno a superare quello che era il precedente incontro con il pubblico pre-limitazioni pandemiche. La parola digitale ovviamente c'è, ovviamente si ritorna lì, e altro motivo di attenzione che ho dato è stata la risposta al termine di questa parte di presentazione del direttore artistico. Ok, benissimo, inevitabilmente non si può fare la guerra contro i mulini a vento, è interessante in collaborazione con altre grandissime sedi teatrali europee che sono state citate creare poi un archivio. Ecco, se vogliamo parlare di creazione d'archivio, se vogliamo parlare e portare una sorta di catalogo, ecco, ok, così va bene, ma il teatro resta il teatro, è l'arte più antica, è l'arte omnicomprensiva, è quello che sin dalla notte dei tempi veramente porta motivi che vanno oltre l'aspetto dello spettacolo, portano l'aggregazione, portano la cultura, perché no, portano anche il divertimento, portano la riflessione, per cui io direi che un aspetto digitale è certo legato a una realtà di catalogo o di archivio, così, ma resta sempre la concretezza del palcoscenico, sempre e comunque, che ovviamente deve restare. Onore al merito per l'ottimo lavoro. In attesa della partenza, la conferenza stampa poi, come ho detto, ha percorso anche altri aspetti per quanto riguarda il di fuori, l'aspetto esterno e l'urbanistica in dialogo con le istituzioni, e ovviamente abbiamo anche, anzi, il direttore artistico Walter Malosti ha poi dato anche anticipazione di alcuni brani per quanto riguarda la densa programmazione di stagione. E credo che il triennio prossimo, esaurito questo nel 24, sarà proprio insomma la ricerca del chi o io, chi sarà dopo di me, insomma, alla ricerca di nuovi talenti, insomma, questo è il nostro compito fondamentale, e anche insomma un rischio che secondo me andrebbe preso più decisamente. Vi dico informalmente, poi se siete stufi mi fermate ovviamente, perché io non sto a descrivere tutti gli spettacoli che abbiamo in cartellone, cerco di usare questi titoli per creare delle connessioni rispetto a quello che intendiamo fare. Inaugura la stagione della Sala Grande, la Sala Leo De Bernardinis, Frankenstein dei Motus, che è anche un segno curioso, insomma, con Teatro Nazionale inauguri, insomma, non con, insomma, con un gruppo prestigiosissimo, ma insomma dell'innovazione, della ricerca, con protagonista Silvia Calderoni, è una nostra coproduzione, siamo molto curiosi di vedere quello che stanno combinando, ovviamente li aspettiamo qui, proveranno anche qui, che è un'altra cosa che stiamo cercando di fare con molti gruppi, cioè diamo anche la possibilità di realizzare qui i lavori, l'abbiamo fatto l'anno scorso con il progetto Pasolini, che tra l'altro vorrei citare un po' come un fiore all'occhiello, insomma, chiaramente Lazarus era, diciamo, sì, non era facile farlo, ma abbiamo vinto, diciamo, in maniera facile col pubblico per tanti motivi, no? Invece voglio segnalare qui la media degli spettatori del progetto Pasolini, che era quasi di 500 spettatori a sera, molti giovanissimi, che è una cosa inusuale, è una cosa importante, non, appunto, una cosa complicata. Ma Pasolini, adesso sto studiando, vedo fare poi un intervento al Festival di Filosofia di Modena, la relazione tra Pasolini e Don Milani, no? E Pasolini si rivolge ai ragazzi di Don Milani, che hanno scritto, no, lettera alla professoressa, dicendo loro sì sì va bene quello che dite, ma pensate che a questo dovete aggiungere tutte le cose complicate. Dovete avere una visione del mondo che non è soltanto quella, ma anche ovviamente non considerare la cultura come una cosa insomma, non è soltanto la terra, non è soltanto il particolare, ma leggete Virgilio. E che secondo me è molto interessante, cioè, il teatro mette queste due cose insieme spesso. Aha. Femi Cuti, ovviamente figlio di Fela Cuti, con Bang Bang Bang. She said, love me, baby, don't stop. She said, squeeze me now, now. Bang Bang Bang, I just can't go. Bang Bang Bang, I just can't go. Ha ricordato la rassegna su Danza Carne, che è stata veramente importante, e poi i progetti su Pasolini, Lucius e David Bowie. Sarà l'esordio in direzione a teatro per uno spettacolo dove appunto si cimenterà Nanni Moretti. Insomma, i nomi sono veramente, oltre che eterogenei, quanto mai a volte coraggiosi. Beh, certo, la partenza con Motus per quanto riguarda Arena del Sole è qualcosa di molto importante, coraggioso, anche se noi conosciamo bene, però insomma ha dato un'intersezione tra diversi dialoghi e un pubblico che va a diversificare nel suo gusto e a conoscere anche magari linguaggi nuovi. Poi la compagnia Teatro del Pratello, Ascanio Celestini, che dal 26 al 28 dicembre sarà presente. E veramente i nomi sono quanto mai eterogenei, non sarà certamente una produzione con una continuità monotona, anzi esattamente il contrario, e gli approfondimenti continueranno e anche le collaborazioni. E per quanto riguarda l'ultima parte di conversazione con Walter Malosti, poi sono riuscito anche a prendere un attimo con queste sono parole di presentazione in conferenza, poi sono riuscito anche a scambiare due chiacchiere personalmente, magari concluderemo con quelle. Comunque poi la stagione si inaugura in un altro senso, diciamo, dopo i Motus, con Nanni Moretti, che ha la sua prima regia teatrale, con un grande cast di attori, con uno specialista tra l'altro della Ginsburg come Valerio Binasco, e anche con Daria De Florian. Sono due atti unici di Natalia Ginsburg. Nanni Moretti è stato molto indeciso su cosa fare, poi alla fine si è